Radio Onda Rosso 87,9, secondo collegamento di oggi con il Portogallo. Siamo in collegamento col nostro secondo corrispondente che è Antonio, un compagno dei Movimenti per il diritto all'abitare di Lisbona, di Abita nello specifico. Lo salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene. Mi sento bene. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Allora, dopo aver approfondito la questione sanitaria, con te invece facciamo più una panoramica politica rispetto alla questione coronavirus in Portogallo. In particolare, la prima domanda che ti facciamo è relativa alla gestione del virus da parte del governo Costa e in generale qual è la situazione politica attualmente in Portogallo e se la questione del coronavirus ha influito in qualche modo, visto che abbiamo anche notizie, abbiamo raccontato anche da questi microfoni spesso che in occasione dello scoppio dell'epidemia ci sono stati diversi sconvolgimenti politici in vari paesi del mondo. Quindi, se intanto puoi aggiornarci sulla situazione politica governativa in Portogallo. Sì, in Portogallo siamo in questo momento, c'è un governo socialista guidato da Antonio Costa. È un governo socialista che si è insediato dopo le elezioni parlamentari di ottobre, con una maggioranza relativa, non ha raggiunto la maggioranza assoluta, e diciamo quindi è un governo di minoranza totalmente socialista. Che viene appoggiato, che lavora per geometrie variabili a seconda del progetto di legge o del decreto che deve presentare, va a destra o a sinistra, che è un cambiamento abbastanza importante rispetto alla situazione precedente, che è durata nella scorsa legislatura, dal 2015 al 2019, in cui il governo socialista, completamente socialista anche quello, però era sorretto da un accordo di maggioranza, era sorretto esternamente dal Partito Comunista e dal Blocco di Scherda, il Blocco di Sinistra. E quindi c'è stato questo cambiamento e che diciamo ha sorpreso un po', cioè, in questo momento implica. Diciamo, allo scoppio del virus, della pandemia, c'è stata anche, è vero, questo è stato anche raccontato ai giornali italiani, una certa coesione di tutte le forze politiche di fronte alla dichiarazione dello stato emergenza, che la dichiarazione dello stato emergenza per la prima volta è successa nella storia del Portogallo dal 74, dalla rivoluzione. Che è stato preso molto alla leggera da un giorno a quell'altro e che ha comportato anche la sospensione di numerosi diritti, come in vari paesi, soprattutto il diritto allo sciopero tra i primi. C'era qui in corso una vertenza molto forte degli stivadores, sono i portuali di Lisbona e di Setúbal. Era in corso a molto tempo, stava bloccando le merci. Ed è sembrato quasi una scusa la dichiarazione dello stato di emergenza con tanto anticipo per diciamo, arrivare a una soluzione di un problema forte, grosso, che si stava creando anche in prospettiva di un lockdown in questo senso. Senti, quali sono state le misure prese dal governo di sostegno alla popolazione? Anche perché, come raccontavamo prima con la corrispondenza precedente, il governo ha fatto questa mossa a livello sanitario molto intelligente di chiudere, cioè di andare in lockdown da subito quando c'erano ancora pochissimi casi, e sicuramente in qualche modo la struttura anche economica portoghese in questo ha aiutato e ha fatto in qualche modo, però ha stoppato da subito le attività commerciali e la produzione. Quindi quello che ti chiediamo è come ha reagito, in qualche modo, quali sono state le misure di sostegno al reddito della popolazione prese dal governo, anche di sostegno alle imprese, insomma, perché sappiamo bene quali sono poi le priorità dei governi in questi casi e se in qualche modo c'è anche un legame con la crisi economica che il Portogallo ha vissuto in tempi abbastanza recenti, considerando appunto che fino a pochi anni fa era un'economia in completo sfacelo e che richiedeva l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale. Partendo da quest'ultimo aspetto che hai menzionato, si può dire che, diciamo, che anche lo stesso boom il cosiddetto boom portoghese è stato un boom relativo in questi anni. È stato effettivamente il Portogallo si è comportato da buon alunno, come lo chiamavano ai tempi della Troica, e ha, diciamo, ha rispettato tutte le clausole previste dal memorandum, ed è riuscita, attraverso una trasformazione piuttosto forte di riqualificazione dei centri urbani, è riuscita, diciamo, a uscire dalle secche della crisi e a presentare delle cifre, delle crescite di PIL notevoli. Però un'economia basata sulla alta precarizzazione in questi anni, cioè, diciamo, anche con un governo di sinistra che effettivamente ha aumentato quello che è il salario minimo, che è passato dai 500 euro del 2015 ai 635 di oggi, per esempio, però sempre iscritto in un discorso, in una logica neoliberista, e di fatto questa crescita del Portogallo si è basata soprattutto sul turismo e sull'investimento immobiliare straniero, tendenzialmente. E quindi in questi anni stiamo vivendo a Lisbona, e non solo, nei maggiori centri soprattutto, una crisi abitativa di proporzioni immense, così come in varie città d'Europa sicuramente, però è stato anche ragione per cui sono nati diversi movimenti, diverse mobilitazioni. Diciamo che allo scoccare della crisi, il governo ha fatto certe mosse anche come risposta anche al lavoro e alle proteste che i movimenti hanno messo in atto. Per esempio, la sospensione degli sfratti, che oggi è stata prorogata fino al 30 giugno perlomeno, di qualsiasi sfratto della non rinnovazione dei contratti, è stata una delle prime mosse, ma è stata adottata perché mentre si dichiarava lo stato di emergenza e si chiedeva alla persona di stare a casa, lo Stato disoccupava, sgomberava dal proprio parco immobiliare lasciato completamente all'abbandono decine di persone, non migranti in realtà portoghesi, ma di etnia sigana, come si dice qua, cioè di etnia rom, e non solo, attraverso anche la mediatizzazione che siamo riusciti a tenere, sfruttando un po' la questione di bisogna avere una casa per fare la quarantena, siamo riusciti a bloccare gli sfratti. Poi probabilmente sarebbe stata una misura che sarebbe arrivata, non lo sappiamo, però effettivamente c'è stata una grossa mobilitazione nei primi tempi, dovuta al fatto anche che qui c'è da ribadirlo, non c'è stato un lockdown totale come in Italia, le attività produttive sono andate avanti. Non solo, per esempio, i centri commerciali si sono chiusi quando i lavoratori sono entrati in sciopero spontaneo perché non volevano più lavorare, e quindi diciamo che il governo ha risposto immediatamente a delle sollecitazioni che venivano già dalla popolazione più o meno organizzata, e ha dimostrato effettivamente un certo buon senso rispetto ad altre classi dirigenti o classi politiche presenti in altri paesi, come ad esempio la regolarizzazione dei migranti, che non è una vera e propria regolarizzazione perché è provvisoria, vale fino a luglio, che però, diciamo, ha consentito a una buona parte, non sappiamo i numeri in realtà, perché i processi burocratici poi sono un po' complicati, però l'idea è stata quella appunto di proteggere la popolazione migrante, anche per proteggere in generale la popolazione che non aveva un numero di sicurezza sociale, si chiama, cioè un numero per accedere, un codice per accedere al servizio di salute, e questa cosa, diciamo, avrà sicuramente aiutato, nonostante presenti delle criticità notevoli. Solo per approfondire il tema che appena visto che l'hai nominato, ti chiederei se ti va di andare un po' più a fondo, visto che anche di questo ne abbiamo parlato nella precedente corrispondenza, però per andare un po' più a fondo anche sulle ragioni politiche e sulle implicazioni che questa scelta ha avuto. Abbiamo già detto prima che questa regolarizzazione è una regolarizzazione parziale e temporanea. Ti chiederei appunto se questa scelta in qualche modo anche a livello di dibattito nell'opinione pubblica ha suscitato delle reazioni, e poi effettivamente come i migranti poi si stanno vivendo questa decisione, se si sono mobilitati o comunque hanno, che situazione stanno vivendo in seguito a questa decisione presa dal governo. Sicuramente in termini di clima politico in generale non viviamo un clima politico all'italiana in questo senso. Abbiamo un'estrema destra fascista che è entrata per la prima volta in Parlamento proprio nelle ultime elezioni con un deputato. Abbiamo un'estrema destra classica che però non ha ottenuto grandi successi, però non c'è un clima politico, un dibattito come quello italiano rispetto anche al tema della migrazione e degli immigrati. Per cui di fatto si può dire che in generale l'opinione pubblica di fronte all'emergenza della crisi sembrerebbe aver capito e aver accettato queste misure anche per semplice fatto di tutelarsi, di tutelare la salute nazionale. C'è stato uno shift, c'è stato un cambiamento notevole, secondo me, tra anche io posso parlare soprattutto in relazione alla casa, cioè le nostre pagine di Facebook inondate di commenti razzisti fino al giorno prima, nel momento in cui è scoppiata la pandemia, le nostre pagine sono veramente scoppiate di indignazione. In termini televisivi non c'è una polarizzazione tanto forte su, che comunque è il mezzo anche qui più utilizzato di informazione sulla questione dei migranti, per cui diciamo che questo non ha avuto, ha avuto un impatto positivo, anzi, sia questo sia anche la questione carceraria che è stata trattata abbastanza bene. Abbiamo avuto un indulto per 2000, più di oltre 2000 detenuti, cioè sono state misure diciamo notevoli, nel senso, da un certo punto di vista, di buon senso e sinceramente non senza una grossa polarizzazione. Sicuramente molto diverse anche dal dibattito italiano e dalle decisioni prese in Italia. Senti, per chiudere ti farei una domanda più specifica appunto sulla questione dell'abitare, se in questo periodo, come anche qui insomma si è resa evidente anche lì la questione appunto dei senza casa, dei senza tetto e in generale dell'emergenza abitativa. E come vi state comportando come movimenti rispetto a questa questione? Hai già detto prima il fatto del blocco degli sfratti e degli sgomberi che è stato ottenuto anche grazie alla mobilitazione dei movimenti. Se magari ci puoi anche raccontare come questa mobilitazione si è sostanziata e in qualche modo quali sono state le rivendicazioni che state portando, quali sono state quelle che avete portato e quali state portando al governo portoghese, al governo Costa. Sì, allora sicuramente appunto, qui potevamo uscire di casa banalmente, cioè rispetto a questo lockdown non ha, cioè, era un invito a ritornare a casa, quindi noi come movimenti chiaramente abbiamo dovuto rispettare certe norme di distanziamento fisico tra di noi, ma si poteva intervenire soprattutto in una prima fase e si è potuto proprio esprimere solidarietà nel momento dello sfratto, a tentare di bloccarlo. Dopodiché, effettivamente, c'è stata un'impossibilità di riunirsi e di manifestarsi collettivamente in strada, e noi ci siamo organizzati in varie maniere, perché innanzitutto abbiamo visto che le classiche associazioni che normalmente si occupano dei senza tetto nel pasti, nel fornire pasti o cose del genere, si sono immediatamente ritirate nel momento in cui è stato chiamato lo stato d'emergenza, è stato dichiarato lo stato d'emergenza. E allora a quel punto abbiamo, diciamo, le mense popolari che già esistevano negli spazi sociali si sono attrezzate in maniera tale da poter fornire questi pasti che mancavano. Effettivamente dobbiamo registrare che dopo 10 giorni in cui siamo stati, secondo il nostro modo di vedere, fondamentali in questo, oltre a fornire questa cosa, a denunciare questa mancanza, lo Stato si è mosso e ha messo l'esercito a dare i pasti. Questa è stata sulla questione senza tetto. Sulla questione senza tetto ci sono dei vari progetti, c'è l'apertura. Insomma, ci sono dei vari progetti che vanno avanti, diciamo, andranno avanti nel breve periodo. In termini delle nostre rivendicazioni, noi abbiamo chiesto immediatamente il blocco degli sfratti, l'abbiamo ottenuto, e non solo dall'abitazione pubblica e abitazione privata, ma anche il problema è stato che il blocco degli affitti. Il blocco degli affitti ed è stato immediatamente seguito dal governo, però con una modalità che prevede il debito con lo Stato senza tassi di interesse, cioè garantire che si continui a pagare gli affitti, lo Stato ha messo un fondo, ha utilizzato in realtà un fondo che doveva servire si chiamava primo diritto, ossia un fondo che serviva per dare per rimettere in condizioni degne, dare abitazione degna a chi ancora, in moltissimi in Portogallo, non vivono in case che si possono chiamare in questo nome. Insomma, ha messo questo fondo a disposizione perché gli inquilini continuassero a pagare gli affitti ai proprietari. Questa è stata una mossa che ha, diciamo, calmato un po' le acque, però di fatto le persone si troveranno indebitate in un contesto in cui gli affitti erano esageratamente alti. A Lisbona si parla di un 58% di media, la quantità la percentuale di salario, di reddito familiare che le famiglie spendono in abitazione, come media. Quindi sono numeri altissimi, affitti che non erano impossibili da pagare. Indebitarsi per poterli pagare sarà un problema, e di fatto lo sta già succedendo. Abbiamo chiesto l'esproprio degli alloggiamenti locali, li chiamiamo qua gli Airbnb banalmente, gli appartamenti turistici, che sono una vera piaga, 22.000 quelli solo nella città di Lisbona, città di 500.000 abitanti, in cui ci sono 16.000 famiglie a chiedere un'abitazione pubblica al comune. E anche questo, però, cosa è successo? Le famiglie sgomberate dai quartieri sociali, attraverso la nostra lotta, hanno montato delle baracche banalmente attorno al quartiere dove erano stati sfrattati. Abbiamo continuato a mediatizzare e siamo riusciti a ottenere, per esempio, che queste famiglie, stiamo parlando di oltre 80 persone, di cui gran parte bambini, fossero rialloggiati, ricollocati in appartamenti turistici che in questo caso sono stati confiscati. Noi pensiamo che da questa crisi ovviamente si dovrà uscire in maniera proteggendo le persone e non le imprese, ed è questo di fatto l'indirizzo che questo governo ha preso, così come vuole l'Europa di fatto. E quindi sappiamo, e già arrivano tutti i segnali della grande crisi che sarà anche dal punto di vista abitativo. Le persone ci stanno già contattando, perché in realtà vengono a sapere solo successivamente i propri diritti. La conoscenza dei propri diritti è un problema. Il fatto di non arrivare l'informazione ha fatto sì che molti uscissero dalle case o fossero sfrattati, e ci contattino solamente in questo momento. Insomma, lotteremo, siamo di fronte a una crisi che sarà più grande sicuramente di quella di 10 anni fa. Qua stanno cercando di risalvare tutto e di rimettere il turismo a funzionare. Noi sappiamo che un'economia, questa è una testimonianza, questa del Covid è stata una dimostrazione di quello che diciamo da anni, che delle economie basate solamente sul turismo, la monocultura del turismo è deleteria, e da un giorno a quell'altro può creare dei disastri impressionanti. Assolutamente, sei stato molto chiaro. Antonio, non so se aggiunge da qualcosa da aggiungere in chiusura. No, ringrazio la radio per questa disponibilità. Vi ascoltiamo, vi appoggiamo, stiamo insieme, stiamo juntos. Dai. Ci sentiamo presto, allora, ti richiameremo sicuramente nelle prossime settimane. Nel frattempo, grazie e un abbraccio forte. Abbraccio, ciao a tutti e a tutte. Ciao.